Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Iniziati gli ultimi 30 minuti di Eclettica, quelli che ci porteranno alla chiusura attorno alle 20 della trasmissione del venerdì, visto che ci sono 5 trasmissioni, denominate volumi, ogni settimana con Giulio Cappardoni sulle frequenze di Rock FM. Ci eravamo ascoltati in chiusura della prima parte del No Twist con Good Lies e gli Annuals con Soar, e abbiamo aperto con uno dei fiori all'occhiello fra le scoperte del periodo, quando me ne vado in giro con il mio bastone da rabdomante a cercare sorgenti di musica, Bridges and Power Lines, sto parlando di loro con Uncalibrated. Giulio Cappardoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che vi ricorda l'altro indirizzo importante myspace.com/eclettica, come anche il nuovissimo rockfamily.it, quello è il futuro. The Old Haunts è questo il nome della formazione che ci stiamo per ascoltare, formazione che nasce in quei luoghi in cui già hanno avuto modo di nascere, crescere e diventare grandi band come i Wipers, i Sonics, i Dead Moon. I Hold Ons, che vengono da Olympia, stato di Washington, sono un trio di cui fa parte anche Toby Vale, che suonava la batteria nelle Bikini Kill. Lei è l'unica donna nella formazione, gli altri due sono due maschietti. The Hold Ons, che escono per Kill Rock Stars, etichetta tipica per le band che provengono da quella zona geografica, con un album dal titolo Poisonous Times, dal quale vado ad estrarre Volatile. We'll be right back. Apollo 13 flight controllers, listen up. Give me a go, no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmu. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Walks amongst you all, you tired human beings. He's got all the things a cripple has, not two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, exactly the same. You must be a masochist. The love of modern laughter on his last leg, on his last leg. Crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through life. Oh, well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stay scared. So I cut all the good stuff, yeah, I cut my food. By my giorno Chet era un altro. Abitavamo a Focette, nella stessa pensioncina familiare. Lui era con una ragazza inglese, bellissima, e passavamo il tempo a giocare a ping pong. Una volta girammo un filmetto, proprio la tipica vita dei villeggianti. Era di notte che la storia di Jekyll e Mr. Hyde si ripeteva. Quando al mattino rientravamo in pensione, non facevo in tempo a fare il primo sonno, che Chet spalancava la porta e chiedeva «Carlo, please, give me the key of your car». Che era più un ordine che una preghiera. Cosa fare? Tieni, va. Una mattina, guardando nel contachilometri della mia Appia seconda serie, vidi che la sera prima aveva fatto più di 500 chilometri. Per cercare la droga era arrivato ben lontano, fuori dalla Toscana. e cominciai ad avere paura. La mia fortuna, sempre fedele, mi tirava la giacca. Nascosi la macchina lontano in un cascinale e dissi che si era rotta. Pochi giorni dopo, Chet fu trovato svenuto in una stazione di servizio della Firenze Mare, con un ago conficcato nel braccio. Arrestato, fu rinchiuso nel carcere di Lucca. Al processo gli dettero 3 anni. Chet dimostrò ancora tutta la sua cattiveria, spifferando tutti i nomi di medici e farmacisti che, solo per amore del suo jazz, gli avevano dato gratis ricette fasulle e droga. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. Buona proposta proveniente dalla Matador Records, e non è che di recente questo succeda spesso. Jaguar Love, appena ascoltati con Bats Over the Pacific Ocean e prima ancora Fried and Rabbit, probabilmente uno dei nomi che più compare nell'intera stagione numero 14 di Eclectic, 14esima e ultima all'interno delle playlist della trasmissione. Fried and Rabbit, che sono ritornati con The Modern Leper, la loro più recente cosa. Ed ora invece New Hampshire, da cui proviene Nat Baldwin, musicista che ha incrociato e sta incrociando ancora la sua storia artistica con quella di Sam Amidon, altro nome che avete sentito nominare, di cui avete sentito le opere. nella stagione in corso. Nat Baldwin, un artista solo con il suo contrabbasso e la sua voce, che esce nel mese di aprile, il 29 per la precisione, per Broken Sparrow, con un album dal titolo Most Valuable Player, dal quale vado ad estrarre 1, 2, 3. Houston, we have a problem. We'll be right back. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 24, volume numero 5, indice, The Plastic Constellations, Sunlux, Dead Science, The Notwist, Annuals, Bridges and Power Lines, The Old Haunts, Frightened Rabbit, Jaguar Love, Nat Baldwin, Sunset. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.